soldi in una giornata dritta, la vita affidata all'oroscopo e la gazzetta, caffè, calzini volanti, pochi picchi di massima, l'altra metà del vestito era sotto la doccia. E non ce la faccio più. Dicevano, lascia la borsa, tu non lavora, non è più cresci. Ma guarda, spiegare a tutti che sono il segno dei pesci. Innamorato della lentezza, se decido di diventare mi basta la grezza. Fragile di stomaco, se non mi sento all'altezza, ci sono i desideri a farmi la corteccia. Ma oggi ci voglio proprio. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Non so se il male fa rima con successo, di certo fa rima con denaro sporco. Ma io volevo solo una via d'uscita, non volevo salire, cercavo una discesa. Due passi nella notte si trasformarono in frammenti, in canzoni spezzate dal battere dei denti. Fu in quel momento che apparve la fata turchina, aveva un casco in testa ma non c'era il motorino. Comincia cambiando le lenzuola, continua ascoltando ogni parola e non dire mai più. Non ce la faccio più. Non ce la faccio.